Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, ieri sera a New York ci sono state ulteriori reazioni agli attacchi aerei russi in Siria, attacchi che rappresentano sotto molti punti di vista una svolta storica e una svolta geopolitica. Sentiamo intanto il segretario di Stato John Kerry subito dopo gli incontri promossi dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dalla Russia, che è il presidente di turno, proprio sul terrorismo. On the imperative of as soon as possible having a military to military deconfliction discussion. Ecco, Kerry dice: è imperativo trovare una soluzione per evitare un'escalation al di fuori del controllo di tutti. Sono parole di ammonimento, di controllo, di richiesta di un dialogo nei confronti della Russia. E beh, è una richiesta che è un po' sulla difensiva, perché naturalmente la Russia sta già attaccando e facendo quello che crede sia più giusto per lei e per il governo siriano di Assad. Sentiamo Lavrov. And I believe that this meeting, as a follow-up to the discussions between the two presidents, is a very useful occasion. Abbiamo avuto un incontro costruttivo e utile, molto simile a quello che c'è stato fra i presidenti Putin e Obama. Beh, Lavrov qui, come dire, cerca di creare un ponte e più moderato. Del resto stanno già facendo quello che vogliono in Siria e dunque chiaramente non può che aprire una porta e offrire disponibilità, e aggiunge: faremo di tutto per evitare incidenti non voluti e siamo d'accordo sulla necessità di avviare un processo politico che porti a una Siria democratica e unita. In fact, we now see the result of this failure, which is a flood of refugees out of Syria and Iraq because they have given up hope of ever returning to their homeland. Ecco, avete sentito John McCain, che fu il concorrente di Barack Obama alle elezioni del 2008, e McCain dice: si tratta di una brutta giornata e un brutto colpo per la leadership americana. È ora che il presidente Obama si svegli, affronti la realtà del mondo e riaffermi la leadership degli Stati Uniti. E questo non vuol dire che dobbiamo inviare migliaia di truppe di terra di nuovo in Iraq o in Siria, ma significa mettere a punto una politica. Una delle reazioni più interessanti, devo dire, è stata quella di Donald Trump. Ormai, quando si deve sentire uno dei candidati, si sente Trump, è il candidato dominante. Non abbiamo sentito Jeb Bush, non abbiamo sentito gli altri concorrenti per la nomination repubblicana. Sentiamo Trump in un'intervista alla CNN. At the same time, if they want to hit ISIS, that's okay with me. I'm not going to be saying we have to do it all. You know, we're like the policemen of the world. Ecco, Trump in sostanza dice: beh, intanto parte con un attacco naturalmente a Obama. I russi hanno fatto quello che hanno fatto, dice, perché non rispettano più il nostro presidente, non rispettano più gli Stati Uniti come paese. Ad ogni modo, vi dico questo, che se loro vogliono colpire l'ISIS, beh, benvenga la loro azione. Per me è ok, che lo facciano pure. Non è detto che dobbiamo essere sempre noi e soltanto noi i gendarmi del mondo. Ecco, poi Trump ha anche detto di non essere in grado di esprimere un giudizio sul fatto che i russi abbiano attaccato Homs, e dunque non direttamente l'ISIS, ma alcuni dei ribelli che stanno avanzando contro il governo di Damasco. Perché, dice Trump, chi li conosce? Neppure noi sappiamo davvero chi sono questi ribelli. Molti di questi ribelli sono trasformati poi in ISIS, e dunque noi abbiamo speso miliardi di dollari, abbiamo mandato uomini, abbiamo sacrificato uomini in Iraq, abbiamo dato gran quantità di armi, e dopodiché non sappiamo neppure chi stiamo sostenendo. Единственный верный путь борьбы с международным терроризмом в Сирии и на территории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов. Questa è la voce di Vladimir Putin quando ha annunciato ieri alla televisione russa la sua decisione di far partire le missioni aeree. Ha dato tre punti principali. Il primo è che si aiuta il governo siriano, il secondo che si deve combattere l'ISIS e il terrorismo, il terzo che sarà comunque un'azione limitata nel tempo e che non si manderanno soldati sul campo, no boots, come direbbero gli americani. Insomma, Vladimir Putin avanza anche perché, devo dire che in effetti alcune critiche repubblicane ci stanno tutte, perché non ha trovato sulla sua strada un'America decisa, ha trovato invece un'America sul piano della politica estera confusa, capace soprattutto di abbandonare i suoi alleati storici in nome di scelte politiche tra virgolette democratiche, che poi finora, come abbiamo visto dalle primavere arabe, hanno dato ben pochi risultati. Dietro la superficie delle azioni militari russe in Siria, che sono deleterie per molte ragioni, io direi che potrebbe nascere forse un germoglio del compromesso, un germoglio per un accordo che possa consentire a Russia e Stati Uniti di cogestire la situazione e di sferrare poi un attacco decisivo contro l'ISIS. Quale può essere questo compromesso? Forse qui pecco di ottimismo, però cerchiamo di vedere anche le vie di uscita possibili, soprattutto quelle positive. Torno alla dichiarazione di Lavrov in apertura di trasmissione, quando dice: siamo d'accordo sulla necessità di avere un processo politico che porti a una Siria democratica e unita. Ecco, perché questa dichiarazione è importante? Perché si rifà una proposta, una vecchia proposta americana che era stata chiamata la Yemeninsky Solution, che in sostanza diceva così: l'America proponeva questo alla Russia, Assad si dimette, al suo posto si installa un esponente del suo regime che garantisce la continuità della gestione degli affari di Stato, allo stesso tempo si comincia a dar fiato ad alcune voci dell'opposizione e si avvia un processo democratico. Mosca tiene la sua base in Siria e la sua sfera di influenza. Per Putin però quella soluzione significava, sottostare a un'idea, a un diktat americano, perdere la Siria dal suo punto di vista. E allora, tra l'altro, l'ISIS di fatto non esisteva. Ecco, adesso le cose sono cambiate, perché per l'America la cosa più importante è vincere la guerra contro l'ISIS. La Siria di fatto è già in mano russa, dimissioni volontarie di Assad a questo punto potrebbero risolvere l'impasse. Che siano possibili? I segnali ci sono, perché Putin a un certo punto, quando era a New York, ha detto di non essere wedded, sposato a una permanenza con tempi illimitati di Assad al potere, e d'altra parte rivendica il diritto di nominare qualcuno al suo posto. Obama per ora chiede solo il ritiro di Assad e non altro, e quando Kerry dice di aver garantito alla Russia che ci sarà un coordinamento per evitare che gli attacchi dei suoi caccia siano intralciati da missioni degli americani e degli altri alleati, anche lui sta facendo un passo in avanti. Speriamo che dietro questa confusione, che dietro questi attacchi, queste polemiche infinite fra Stati Uniti e Russia, si possa cominciare a trovare un accordo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Mi è venuta in mente una canzone degli M83. Stiamo parlando di controllo dei cieli siriani da parte dei russi che partono all'attacco. La canzone We Own the Sky, controlliamo il cielo. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.